l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati all'altra Europa, come ogni settimana qui per raccontare l'Europa delle storie, l'Europa delle persone, delle opportunità, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Puntata speciale quella di oggi, puntata live dal Salone Nautico di Genova, dalla nostra postazione, lo stand SR25, quindi se siete qui al Salone, vi state dirigendo al Salone oggi e domani, potete trovare i nostri spazi, tanti programmi in onda. L'Europa è la barca, l'Europa è il mare, l'Europa e la vela, questo è un po' il filo conduttore della puntata di oggi. Tanti ospiti, do il benvenuto intanto a Valentina Capanera, referente del progetto Wildest Europe per l'area marina protetta di Portofino. Ciao. Benvenuta Valentina. Poi Michelangelo Aravagnan, fondatore di Antlos, una startup che ha avuto anche particolari riconoscimenti europei. Ciao Michelangelo. Ciao, buongiorno. E poi Piero Formenti, titolare di Zar Formenti, azienda che produce gommoni, vicepresidente dell'Unione Nazionale dei Cantieri delle Industrie Nautiche, associata a Confindustria, Ucina, e presidente anche e soprattutto, vista la puntata di oggi, di EBI, European Boating Industry. Buongiorno Formenti. Buongiorno. Che cos'è EBI? EBI è un'associazione di associazioni, cerco di semplificare. In pratica Ucina, Confindustria Nautica, è l'associazione che raggruppa tutti i cantieri nautici italiani, servizi per i porti, gli accessoristi e quant'altro che riguardano tutto il comparto e la filiera nautica in Italia. EBI, European Boat Industry, è un'associazione che raggruppa tutte le associazioni nazionali. Abbiamo 13 membri attualmente. Posso elencarli: Italia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Svizzera. Per le note vicende, purtroppo non abbiamo più l'Inghilterra, però sono cercati. Esatto. Non si sa mai, magari in futuro. E ci manca, devo dire, ecco, perché è una nazione in cui la nautica ha un peso importante. L'associazione ha un ufficio a Bruxelles e che costa di due, c'è cioè una segretaria generale ed una avvocatessa che si occupa di affari legali europei. In pratica noi ci relazioniamo e facciamo lobbying presso la Commissione europea. Spesso si parla, scusa, di questa parola, no? Che è fare lobbying a Bruxelles. Questo è un esempio virtuoso, cioè fare lobbying, esatto, vuol dire essere presenti e fare una voce comune. Ci sono due eccezioni, una negativa, esatto, e una positiva. Quella negativa è quando si cerca di fare solo ed esclusivamente i propri interessi a danno di quelli degli altri. La lobbying positiva è quando si cerca di fare gli interessi, nel nostro caso, dell'industria nautica europea, ma senza andare contro gli interessi, per esempio, dell'ecologia, per esempio, di la sicurezza degli utenti, perché è proprio questo di cui ci si occupa, di fare in modo che le norme che escono dalla Commissione europea abbiano anche la nostra partecipazione, in modo da per fare in modo che non siano penalizzanti e eccessivamente lesive per l'industria nautica europea, ma che siano anche orientate alla sicurezza degli utenti. E soprattutto negli ultimi anni abbiamo intavolato un ottimo dialogo con gli ecologisti, che sono abbastanza forti in Europa, proprio perché è abbastanza evidente. Nessuno vorrebbe navigare in un mare sporco o fare il bagno in un mare sporco, quindi è anche nostro interesse che tutto si faccia nel rispetto massimo dell'ambiente. Formenti, qualche numero per avere un'idea anche a livello europeo del settore? Dunque, vi do qualche numero, per esempio, il turnover è intorno ai 20 biliardi. Parliamo di circa, abbiamo 36 milioni di boaters, cioè di utilizzatori, e 6 milioni sono nelle acque europee, navigano nelle acque europee. Il dato più importante è che tutta l'industria nautica europea ha un impatto di 280.000 dipendenti diretti. Sì. Vi faccio però un esempio: in Italia, che dove il moltiplicatore è il più alto in assoluto di tutta Europa, abbiamo un moltiplicatore di 7.4, cioè per ogni dipendente diretto dell'industria nautica ci sono 7.4 dipendenti nella filiera, ristoratori, tutto, sì, dove si svolge, non so, assistenze, distributori, hotel e quant'altro. tutto quanto ruota intorno al turismo nautico e di conseguenza alle barche che vengono utilizzate per praticare il turismo nautico. Credo che questo sia il più alto impatto in Italia, per esempio, il più alto impatto in assoluto, perché di tutto il Made in Italy, perché gli altri settori del Made in Italy al massimo riescono ad avere un moltiplicatore di 3.5, quindi più. C'è dialogo con Bruxelles da quando esiste EBI, le cose sono cambiate, sono migliorate? EBI viene riconosciuta come il rappresentante dell'industria nautica europea a Bruxelles, quindi anche perché per la Commissione europea, per i vari settori della Commissione europea è più facile interagire e comunicare, ormai conoscono i nostri uffici, conoscono la nostra segretaria generale e l'incaricata della parte legale e quindi si relazionano. In questo modo si evita spesso di dover rincorrere delle leggi sbagliate per non conoscenza, facendole in modo che siano coerenti a quello che effettivamente è il settore e la necessità del settore per quanto dicevo prima. Quali sono i punti critici attuali in prospettiva? Su cosa state lavorando in questo preciso momento storico? Io ho un elenco lunghissimo per cui ci sono tante cose, dalla navigazione c'è non so la qualificazione degli skipper, l'impatto sull'ambiente dell'andare per mare, dell'utilizzare la nautica, molto importante tutta la nuova regolamentazione, c'è la nuova RCD che sta per essere applicata, il 18 gennaio verrà applicata, l'Italia è stata la prima ad applicarla, abbiamo avuto un po' di ritardo poi nel nominare gli enti notificati, quindi chi controlla, ma li abbiamo finalmente, abbiamo ricevuto una bella notizia in questi giorni, li abbiamo, e adesso sarà nostro compito per esempio comunicare con la Commissione europea e cercare di dare un po', perché la deadline è il 18 gennaio, stiamo tentando, finalmente avendo gli enti notificati, di dare alle aziende un po' più di tempo per poter, perché tutto va ricertificato secondo la nuova normativa che è un po' più restrittiva e viene rinnovata, era da 5 anni che ci stavamo lavorando ed è andata in vigore appunto gennaio dell'anno scorso, ma deve essere applicata obbligatoriamente entro gennaio del 2017. E tante altre cose, tipo lo sviluppo del turismo nautico, il cercare di mettere in collegamento tutte le varie nazioni che si affacciano sul Mediterraneo per portare non solo gli europei a fare turismo nautico nelle mari d'Europa, ma anche da tutto il mondo portare clienti che portino di conseguenza non solo l'utilizzo delle barche, non solo l'utilizzo dei marinas, ma anche visitano musei, visitano le città, vanno nel territorio, insomma, tutto l'indotto. Di cui dicevo prima. Formenti, prima di salutarci, la porto da Bruxelles a Genova, come sta andando? Ma devo rispondere come cantiere? Sì, come Formenti. Come cantiere devo dire benissimo, siamo contentissimi, abbiamo iniziato con timidezza martedì perché veniamo da una crisi profonda che ha falcidiato negli anni passati il mercato interno del 98%, si era già notata una piccola ricrescita in primavera-estate. Qui si vede gente, ci sono gli italiani che tornano ad avere voglia di comprare, si sentono più apprezzati in quanto turisti nautici e non come ricchi ed evasori, perché stiamo parlando di un turismo nautico che va dal gommoncino, dalla barchettina da 7-8 mila euro fino al grande yacht che comunque fa lavorare centinaia di migliaia di persone. Stiamo vendendo, i concessionari hanno visto questo e stanno cominciando a prendere fiducia e stanno facendo i loro ordini stagionali. C'è un'area, e ho sentito anche altri, non è solo nostra, non è solo un nostro feeling, e questo è molto importante, questa fiera così bella, così molto sul mare piace alla gente, forse non è più come una volta in cui c'erano padiglioni pieni all'interno o addirittura il parcheggio di Piazzale Kennedy, ma è proprio una fiera sul mare con anche dei bei padiglioni, quelli nuovi che sono più capienti di quelli di prima, bella, una veramente, non lo dico io, è un po' come è l'oste che potrebbe dire che il suo vino è buono, però no. Come Ucina la organizziamo, per cui, però io ho sentito anche il sentimento degli altri, ci sono tante cose ancora da migliorare, c'è ancora da crescere, c'è tanto ancora da fare, ma siamo veramente sulla strada buona. Grazie davvero, in bocca al lupo per la sua attività, sia come grazie cantiere a voi sia a livello europeo. Come si suol dire, crepi il lupo, poverino, non mi ha fatto niente di mare, male, ma anche lui poverino. Lo spazio al traffico poi ancora qua con l'altra Europa. l'altra Europa. Eccoci qua ancora in diretta con l'altra Europa dal Salone Nautico di Genova. Tanti ospiti, tante facce diverse di quello che significa vivere il mare. Un progetto europeo si chiama Wild Sea Europe. Con noi Valentina Capanera, referente del progetto per l'area marina protetta di Portofino. E Valentina, che cos'è Wild Sea Europe? Sì, Wild Sea Europe è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, dallo strumento COSME, sì, che tende a promuovere le piccole e medie imprese. È un progetto per la creazione di rotte di turismo sostenibile in Europa, in particolare in 5 paesi, che sono, diciamo, c'è la Liguria, la Spagna, la regione della Catalogna, l'Irlanda del Nord, il Donegal, la regione inglese, il Causeway, sempre dell'Irlanda del Nord, e la Croazia. Il tutto è coordinato da un tour operator che si chiama Travel Ecology, che ha sede a Madrid, in Spagna. Per turismo sostenibile, cosa intendiamo? Nel senso, quali sono i paletti che... Allora, che oggi diciamo che forse è una parola un po' abusata, turismo sostenibile. In realtà noi all'interno di questo progetto abbiamo cercato di definire dei criteri che possano, diciamo, aiutarci ad individuare delle imprese, delle attività che praticano appunto turismo sostenibile. Turismo sostenibile significa per noi quello che è un turismo che si svolge in armonia con la natura, prettamente, quindi non solo senza creare un impatto sull'ambiente, ma proprio che possa essere integrato con una comunità locale e con l'ambiente, senza appunto andare a interagire, senza creare un cambiamento nell'ambiente. Il progetto è iniziato a giugno 2015, finirà a ottobre 2016, se non erro. Esatto. Concretamente, non avete lanciato nuove iniziative, ma avete mappato l'esistente, lo avete sì, diciamo messo in che rete. Abbiamo nei paesi che ho elencato prima individuato, fatto una mappatura delle attività che possono essere definite sostenibili e creato un portale per promuovere gli operatori che praticano questo tipo di turismo e quindi si cerca di spingere quello che sono delle attività che sono un po' poi alla fine di nicchia, perché sono attività nate da poco. Ci puoi fare qualche esempio? Noi per esempio qui nell'area marina protetta di Portofino abbiamo una società, cioè dei giovani diciamo che hanno cominciato a lavorare da poco, che si chiama Outdoor Portofino, che praticano il kayak, il SUP, lo snorkeling e cercano di far vivere in un modo diverso appunto l'area marina protetta. Piuttosto che abbiamo individuato una cooperativa nuova di giovani che si chiama Ziguele, che propone un'attività di trasmissione in videoconferenza dai fondali con un subacqueo che si immerge nell'area marina protetta e in tempo reale c'è un biologo che in qualsiasi parte del mondo può interagire attraverso la connessione internet con questo subacqueo e far vedere con la presenza di un grande schermo quello che vede questo subacqueo in immersione e a tutti gli utenti. Fantastico. In modo quindi anche così chi anche non è subacqueo può fruire comunque dell'ambiente. E wildsea.eu è il portale per avere tutte le informazioni, esatto. Oppure portofinoamp.it, che credo sia il portofinoamp.it è il sito internet dell'area marina protetta di Portofino, dove si possono trovare comunque tutte le informazioni sul parco marino. Valentina, un'ultima domanda, così lo chiedo spesso a chi porta avanti esperienze di questo tipo: è stato complicato interagire con l'Europa, trovare i fondi, interfacciarsi? Diciamo che non è stato semplicissimo. Noi abbiamo la fortuna, forse siamo anche bravi, negli ultimi anni ci sono entrati diversi progetti con la Commissione Europea, anche dei Life. Diciamo che bisogna lavorare tanto, ormai smettere di fare il lavoro rutinario di magari monitoraggio dell'ambiente e dedicarsi la progettazione, però poi trovare un partenariato che possa essere molto forte e anche, come diceva Formentin prima, possa fare un pochino di lobby a livello di appunto Bruxelles per far capire quanto certe tematiche possano essere importanti. Grazie davvero Valentina Cappanera, wildesi.eu, sito internet per tutte le informazioni, in bocca al lupo per l'attività. E beh, alcuni elementi tornano in quello che hai detto anche nel prossimo progetto, giovani, innovazione, provarsi, buttarsi, mettersi in gioco, l'Europa che è lì come grande opportunità. È uno dei progetti che ha sbancato Impact, concorso promosso dall'Unione Europea, si chiama Antlos, con noi c'è il fondatore Michelangelo Ravagnan. Michelangelo, che cos'è Antlos? Sì, innanzitutto sì, anche noi trattiamo turismo nautico accessibile. Infatti il progetto Antlos nasce con la missione, con l'idea di rendere accessibile appunto il turismo nautico, le vacanze in barca, a un pubblico molto più vasto. Quindi non solo turismo di lusso, come prima, insomma, sì. Assolutamente no. Quindi facciamo un po' da sottotraccia, ma tutti possono. Sì, sì, soprattutto i neofiti. Cioè, l'intento è proprio quello di rendere le vacanze in barca accessibili, quindi abbattere la frontiera, la barriera, che le vacanze in barca sono appunto un settore dedicato solamente a pochi, quindi non hanno nulla a che vedere col lusso. Basta pensare che su Antlos ad oggi si trovano vacanze che per un gruppo di amici o una famiglia il singolo può spendere attorno ai 70-80 euro al giorno, quindi molto meno di quello che magari possono spendere andare nei vari bed and breakfast piuttosto che villaggi turistici. Ecco, sì, quindi noi nasciamo appunto con questa missione e ci basiamo su quello che sono i principi della sharing economy, quindi un po' ispirandoci su dei grandi progetti di natura internazionale come Airbnb o piuttosto Uber, BlaBlaCar. Insomma, noi abbiamo sposato questo principio e l'abbiamo applicato al settore appunto delle vacanze in barca, quindi diamo l'opportunità non solo ai professionisti che svolgono questa attività di pubblicare degli annunci di vacanze in barca sulla nostra piattaforma, ma la diamo questa opportunità anche a privati, quindi ai privati possono utilizzare insomma questo sito internet che è il nostro appunto per promuoversi, per poter trovare e mettersi in contatto diretto con turisti, viaggiatori, appassionati o comunque neofiti che vogliono vivere questa esperienza in mare. Quindi io trovo lo skipper con la sua barca che è più tipo BlaBlaCar, cioè ho uno skipper che deve fare il trasferimento di un'imbarcazione, quindi propone un passaggio, o è più Airbnb, quindi mi offro, offro le mie competenze, offro la mia barca e propongo una vacanza? È molto simile ad Airbnb, infatti la stampa ci chiama l'Airbnb delle barche. Okay. Cioè il concetto è proprio che un host, nel nostro caso, no, non è il proprietario della casa, ma il proprietario dell'imbarcazione, pubblica un annuncio su Antlos, può ricevere delle richieste di prenotazione direttamente dagli utenti. Infatti noi non siamo assolutamente degli intermediari, dei broker, loro si mettono d'accordo tra di loro anche su quello che è il prezzo e prenotano utilizzando un sistema certificato, garantito di prenotazioni online. Infatti possono pagare con carte di credito, con PayPal, attraverso la piattaforma. Il progetto è piaciuto in Europa perché, secondo te? Ma comunque si ispira a quello che è un principio, come dicevo prima, la sharing economy, che è in netta crescita. Cioè, ci sono progetti che stanno nascendo nel mondo anche della ristorazione, piuttosto che nei trasporti come nel caso di BlaBlaCar, piuttosto che Uber, nelle accommodation, quindi per quanto riguarda gli immobili. E quindi insomma noi siamo stati tra i primi, assieme anche ad altri colleghi che operano nello stesso settore, ad offrire insomma una piattaforma come questa nel mondo nautico. Michelangelo, mentre mi raccontavi, mi chiedevo, insomma, Airbnb, io affitto una casa, no? Quindi ok, devo sperare che sia pulita come me l'hanno promessa, che sia bella come ho visto nelle fotografie. Qui forse c'è anche un elemento in più, che è l'elemento della sicurezza, cioè nel momento comunque fare lo skipper, comunque portare un gruppo di amici in barca lungo un tragitto, ci sono delle responsabilità in più, responsabilità che voi garantite, valutate, salvaguardate in un qualche modo? Ma allora, giustissimo, infatti quello che noi proponiamo è proprio l'esperienza, che non è solo appunto il poter pernottare a bordo dell'imbarcazione, ma soprattutto svolgere la vacanza, andare a vela in mare, e quindi naturalmente ci sono delle responsabilità. Noi come piattaforma online non siamo in grado di certificare quello che è l'esperienza del singolo skipper, del singolo proprietario di un'imbarcazione, e quindi è la community che lo fa attraverso quello che sono le recensioni, i feedback che rilasciano dopo aver vissuto questa esperienza con lo skipper. Uh-huh. E sono barche solo in Italia o coprite? No, noi adesso stiamo operando in tutto il Mediterraneo per quanto riguarda la stagione estiva, primaverile, autunnale, e per quanto riguarda invece il periodo invernale offriamo vacanze anche nei Caraibi, quindi a partire dalle Isole Vergini piuttosto che a Grenada, Grenadine, insomma cerchiamo di essere operativi tutto l'anno. Il nome Antlos da dove deriva? Antlos è molto curioso, noi l'abbiamo trovato come fondatori all'interno dell'Odissea di Omero, è un termine che in greco antico significa appunto mare, acqua in movimento, è l'incontro tra la nave di Ulisse e il mare, quindi quelle onde, quella scia si chiama Antlos. Antlos.com è l'indirizzo della piattaforma, invece come sede della startup dove siete? Noi siamo insediati in H-Farm, che è un polo tecnologico, digitale, che potrei dire insomma uno dei più importanti di sicuro in Europa e in Italia, molto molto bello. Noi siamo stati selezionati per partecipare al programma di accelerazione di H-Farm nel 2014, in inverno del 2014, e abbiamo deciso per il momento di rimanere lì perché insomma c'è un network incredibile, sta crescendo tantissimo e adesso stanno investendo non solo nelle start-up ma soprattutto nell'ambito education, nella digital transformation di grosse aziende, quindi anche i ragazzi insomma che collaborano con noi sono felici di insomma lavorare in un contesto come quello. Uh-huh. Dicono che non sia tanto complicato lanciare una startup quanto farla sopravvivere, questa startup. Mi sembra che voi siate assolutamente in questa fase, ma poi la tentazione di aprirne subito un'altra, cioè fate una startup, nascono altre mille idee, o si riesce a stare concentrati? Per il momento stiamo lavorando 16 ore al giorno e quindi focalizziamoci su questa, poi il futuro si vedrà. È molto impegnativo naturalmente, sì. C'è, tanti nostri colleghi chiudono dopo pochi mesi, non è facile trovare finanziamenti soprattutto in Italia, perché comunque all'inizio il business non è in grado di sostenere quello che sono i costi di investimento appunto, e quindi si ha bisogno del supporto da parte di investitori o comunque di realtà che danno queste opportunità economiche. Hai fatto vacanze in barca? Ho fatto vacanze in barca, ho lavorato come skipper, come comandante, adesso lavoro dentro un ufficio, non è semplicissimo, però insomma abbiamo a che fare col mondo che amiamo tantissimo. Sì. Antlos.com, grazie a Michelangelo Ravagnan, grazie, e bocca al lupo a tutto il team di lavoro. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua in diretta all'Altra Europa dal Salone Nautico di Genova. Sono Giovanni Minoli e lunedì 26 settembre torno con Mix 24 con Mario Sechi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di Faccia a Faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. L'Altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa dal Salone Nautico di Genova, il mare, la vela e non solo, anche dei simboli importanti di questa città, protagonisti della puntata di oggi. Siamo allo stand S35, se ricordo bene, sì, mi fanno sapere perché ho perso l'appunto, quindi se siete in direzione Salone tra oggi e domani potete passare di qua e incontrare il nostro stand. Allora, due simboli di Genova, uno un simbolo antico, un simbolo che fa parte del patrimonio storico della città, tanto che viene celebrato in queste giornate europee del patrimonio, e sto parlando della lanterna dell'antico faro della città. Do il benvenuto ad Andrea De Caro, direttore esecutivo dell'Associazione Amici della Lanterna e gruppo Giovani Urbanisti della Fondazione Labò. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. E poi Marina Pina Usai dell'Associazione, anche lei Amici della Lanterna e gruppo Giovani Urbanisti, che si occupa nello specifico di, no, ho sbagliato, di Med Fares. Qui insomma ci sono mille enti. Nomi e mille enti. E in particolare adesso poi lo diciamo. Esatto, adesso mi spiegate okay. Bene chi siete. Altro simbolo invece, molto più moderno, molto più tecnologico, è l'Istituto Italiano di Tecnologia, istituto di eccellenza di cui molte volte abbiamo parlato qui all'Altra Europa. Oggi nello specifico parleremo dei Graphene Labs e lo facciamo con Elisa Mantero, che è una delle tecniche che lavora esatto. In laboratorio. Ciao Elisa. Buongiorno a tutti, grazie. Allora tira subito fuori le scarpe che ti ho chiesto di portare. Allora, eccola partiamo da questa scarpetta di Cenerentola. Eccola qua. Allora io adesso, finito il programma, la posto subito sui nostri profili. È una scarpetta oggettivamente impegnativa. Esatto. Ok, neanche Cenerentola probabilmente avrebbe usato tanto. Però è una scarpetta che ci porta nel futuro, vero? Ci porta nel mondo del grafene, perché di fatto è la prima scarpa realizzata con solette e suole in grafene. Si tratta sostanzialmente dell'inserimento di grafene all'interno di questo materiale che costituisce la soletta, che è poliuretano, una possibilità che è stata avviene grazie all'additivazione appunto di grafene in forma liquida all'interno di questo poliuretano. E cos'ha perché il futuro? Perché questa scarpa del futuro? Perché sostanzialmente può diventare termoregolabile e inoltre esaltare le proprietà antibatteriche. Questa scarpa dal design, come diceva Federico, un po' diciamo particolare, va tenuto presente che è rivolta al mercato arabo medio orientale, dove i climi sono essenzialmente molto molto caldi e quindi l'esposizione al sole di una scarpa di questo tipo raggiunge temperature molto elevate. L'additivazione di grafene permette una dissipazione termica molto più rapida e quindi dà comfort al piede stesso e limita la sudorazione, quindi ha queste caratteristiche anche antibatteriche anche per questo. Elisa, cos'è il grafene? Allora, il grafene è un foglio di atomi di carbonio, un foglio sottilissimo. Gli atomi di carbonio sono disposti sul piano in forma esagonale e ai vertici di questi esagoni, che formano una grossa maglia, ci sono appunto gli atomi di carbonio. Questo materiale, immaginatelo sottile, un milione di volte più sottile del diametro di un capello, quindi veramente sottilissimo. Ecco perché si dice che non ha spessore, perché lo spessore di un atomo soltanto, e quindi è definito un materiale bidimensionale per questo motivo. Perché è così eccezionale? Perché ha delle proprietà incredibili, nel senso che è 200 volte più forte dell'acciaio, ha una elevatissima mobilità elettronica, quindi è un conduttore elettrico davvero eccellente, conduce meglio del rame addirittura. Ha un'elevata conducibilità termica, come vi dicevo prima, è flessibilissimo, è trasparente perché si lascia attraversare da pochissima luce e quindi è indicato per applicazioni anche ottiche, optoelettroniche, ed è leggerissimo, tanto che, pensate, un grammo di grafene riesce a ricoprire la superficie di un intero campo da calcio. Quindi insomma, questo dà l'idea delle caratteristiche insomma tecniche di questo nuovo materiale, che è così tanto importante che è oggetto di un progetto europeo, flagship grafene, che ha avuto 1 miliardo di finanziamento, uno dei progetti europei maggiori nella storia appunto dei progetti dedicati alla ricerca scientifica, che vede proprio l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova come capofila. L'idea è proprio quella del portare il grafene da strumento, da materiale di laboratorio alla scarpetta, cioè a renderlo... Esatto. Diciamo che la forza un po' di Graphene Labs, che è sicuramente uno degli attori principali di questo grosso progetto europeo, è proprio quello di riuscire a scalare a livello industriale l'utilizzo di questo materiale, perché è stato diciamo prodotto come inchiostro e quindi può inserirsi in contesti industriali già esistenti senza investimenti molto significativi a livello di infrastrutture e cicli produttivi. All'interno della flagship, dicevo, grafene ha un ruolo importantissimo perché ovviamente lavoriamo su molti argomenti, ecco perché siamo così diciamo capofila: materiali compositi, sviluppo di batterie, energia, materiali innovativi, tecnologie biomedicali. e quindi siamo impegnati su vari fronti. Prima c'era Formenti, che lui costruisce imbarcazioni, e subito ti ha chiesto per la nautica. Sì, è vero, mi ha fatto subito questa domanda. Diciamo che al momento abbiamo iniziato un po' ad esplorare moltissimi dei campi possibili dal punto di vista industriale. La manifattura italiana è ricchissima di questo tessuto fitto industriale, quindi la nautica sicuramente svolge un ruolo di primo piano. Da questo punto di vista, diciamo, si possono aprire scenari molto importanti, nel senso che si potrebbe pensare al grafene come additivo, ad esempio, nei cicli di pitturazione. Cicli di pitturazione dando delle proprietà magari anticorrosive, nella nautica sportiva ad esempio aumentare la scivolosità degli scafi, delle carene, essendo molto molto leggero potrebbe aiutare proprio nelle caratteristiche di leggerezza di questi cicli di pitturazione, oppure ad esempio nei cicli antiosmosi, quindi come protezione della vetroresina per i suoi effetti da barriera, diciamo. Quindi. Questo è il grafene, rimani qua, adesso ci fermiamo, andiamo all'altro simbolo che abbiamo usato nella puntata di oggi, visto che siamo a Genova e che però insomma è un simbolo assolutamente anche di mare, la lanterna di Genova. Allora Andrea, un progetto importante, un progetto anche nuovo, no? Nel senso che è abbastanza recente, legato a... Come la definite voi la lanterna? Cioè, cos'è per voi? Perché è un monumento riduttivo, è il cuore della città. È depositaria dell'identità genovese e ligure, è un faro che ha quasi 890 anni, nel 2018 andiamo appunto a celebrare dalla sua prima costruzione, poi ovviamente c'è il restauro del 1543, ma per la seconda parte, e vivendolo in questo progetto scopriamo che è davvero molto più di un faro, e questo poi infatti è il titolo anche del convegno di oggi dedicato alle giornate europee del patrimonio. Questo perché davvero soprattutto dal Sud America molti visitatori che vengono ce lo raccontano, no? Come qualcosa che si è tramandato dai loro nonni e via dicendo, era l'ultima luce che si vedeva quando si lasciava Genova, quindi c'è un significato identitario molto importante. Genova è una città di mare, di porto, quindi comunque era anche la prima luce che vedevi arrivare, arrivando, quindi era una torre di guardia, era la porta della città da ponente, ma soprattutto era quella luce salvifica, no? Che è rimasta nei cuori di tante persone, quindi non è solo un oggetto storico, ecco, ha diversi significati intrinsechi. E oggi che cos'è? Oggi è un monumento importante, molti l'hanno tatuato ovunque e via dicendo, ma i genovesi l'hanno un po', diciamo così, dimenticato. È diventata una sorta di icona che però è stata dimenticata in tutte queste sue funzioni molteplici. Dal 2001 la provincia di Genova ha fatto questo camminamento che l'ha restituita alla città, però i genovesi sono ancora nella fase di riscoperta del loro monumento simbolo, anche perché ormai oggi è nel porto, isolato, avvinghiato dalle infrastrutture portuali, quindi non ha più quella funzione, ritorniamo, di palinsesto, anche perché da lì si lanciavano i segnali alla città in caso di attacco eccetera, piuttosto che di porte della città. Quindi il primo passo per noi dall'adozione del 2014 come Fondazione Lavo e poi istituendo gli Amici della Lanterna, proprio per permettere a tutti di farne parte, di aiutarci, è quello di farla riscoprire. E questo è il primo step, per farla riscoprire in tutte queste sue sfaccettature. Ed è quello che succederà oggi e domani con le giornate europee del patrimonio, quello che succede con un ricco calendario anche di attività, e tutto questo è anche inserito in un progetto europeo, vero Maria Pina? Esatto, sì, il progetto europeo si chiama MedFar, in realtà si è appena conclusa, diciamo, la fase operativa del progetto. È un progetto che è stato finanziato nel 2013 con lo strumento EMPI, CBC Med, che è uno degli strumenti, diciamo, della comunità europea che finanzia appunto operazioni soprattutto di studio e ricerca e innovazione nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico nel Mediterraneo. EMPI è dedicato proprio al partenariato anche con la sponda sud del Mediterraneo. La Lanterna di Genova è stata inserita all'interno del progetto MedFar, pur non essendo la Liguria all'interno del partenariato, perché il partenariato comprendeva Libano, Francia e Tunisia, ma la lanterna con la sua modalità di gestione è stata considerata come un progetto pilota in qualche modo, quindi è stata valutata citata dal comitato scientifico del progetto MedFar come proprio un esempio in qualche modo da seguire. Il progetto si prefiggeva quello di trovare una nuova funzione poi ai fari, che man mano sono in via di dismissione, fatta eccezione ovviamente per la loro funzione prettamente militare e ovviamente di controllo e guida del traffico marittimo costiero, che rimane ovviamente insostituibile nonostante la tecnologia vada avanti. Quindi il progetto si prefiggeva proprio questo obiettivo, stabilire quali potessero essere le nuove strategie di gestione integrata per la valorizzazione di questo patrimonio, quali potessero essere gli usi e quale anche diciamo il nuovo significato per le popolazioni che di fatto abitano i territori sui quali i fari insistono. Alcune volte, come nel caso di Genova, si tratta di città portuali che storicamente sono state ovviamente importantissime, fondamentali nel traffico marittimo del Mediterraneo. Altre volte invece sono zone più isolate. Tra i nostri fari avevamo l'isola della Sinara, per esempio, in Italia, alcuni fari in Corsica e via dicendo. C'è un sito di riferimento? Sì, c'è un sito www.medfar.eu, è la piattaforma all'interno del quale, oltre alla mappatura di tutti i fari del Mediterraneo, si trovano anche le azioni che sono state fatte su alcuni di questi, quindi le azioni pilota di riqualificazione di alcuni di questi fari, e poi ovviamente le linee guida e tutta la documentazione che è stata prodotta nel progetto per poi un suo futuro sviluppo e che indicano in qualche modo quali possono essere queste strategie di riqualificazione. Quindi questo è il sito, e ne riparliamo fra un attimo ancora della lanterna, e non solo, ci fermiamo il traffico poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Eccoci qua ancora con l'Altra Europa, lanterna di Genova.it. Questo è il sito ufficiale per conoscere tutte le attività proposte dalla lanterna. Andrea, qualche numero, e poi avete portato di fatto la lanterna a Bruxelles anche. Esatto, sì. Dunque, i numeri di cui andiamo orgogliosi sono questi, nel senso dal 2013, prima che l'adottassimo, in cui vedeva 8.000 visitatori l'anno, adesso stiamo arrivando quasi a 20.000 l'anno. Quindi, nonostante tutte le difficoltà del caso, tenendo conto che non abbiamo finanziamenti importanti, non ne abbiamo proprio, piuttosto che mezzi limitati per la promozione e le campagne, siamo contenti. E questo è stato reso possibile dal network, perché questo è fondamentale, che si è creato non solo di aziende o eventuali sponsor, ma proprio di organizzazioni, associazioni e realtà come alcune che ci hanno notato, vedi MedFar, piuttosto che altre, ne parleremo dopo, di Son Porto, un insieme, un network dove la città stessa sta riscoprendo il faro, e quindi questo permette di avere anche un numero maggiore di visitatori. Per quanto riguarda invece il progetto europeo, l'abbiamo portato a Bruxelles, invitati dal comune, in quello che si chiama il programma Eurocities, dove c'è questo tentativo di brandizzazione delle città o comunque di eventi in tal senso, e la lanterna è stato un caso studio, poi anche, devo dire, apprezzato. C'erano città come Rotterdam, Anversa e via dicendo, proprio perché da un oggetto, da un monumento storico, si è riusciti in qualche modo a brandizzare. Lo vedi qua nella grafica, a brandizzarlo un attimo, e quindi a quel punto, tramite questa operazione, fare ritornare quel senso di appartenenza, nel senso c'è la borsina della lanterna piuttosto che il gadget e via dicendo, tu ne sei socio e diventa un motivo di orgoglio, no? Sì, sì, di partecipazione, di condivisione, insomma, anche di un'emozione. Esatto. Di fatto. E Maria Elena Buslak, invece, a proposito di network con altre situazioni, c'è anche un festival che vi lega ad altre zone europee? Sì, c'è un festival che abbiamo portato da Marsiglia a Genova. Si chiama Zone Portuaire, non a caso il nome resta francese, zone portuali, e vede nella lanterna proprio il fulcro in realtà di questa attività. È diciamo un insieme di buone pratiche di avvicinamento del porto alla città e della città al porto. È una maniera di lavorare sulla relazione tra questi due mondi che convivono spesso in parallelo senza troppo parlarsi, se non per aspetti molto settoriali, specifici, professionali, ma al grande pubblico spesso è precluso l'accesso al porto, e invece in maniera delicata e rispettosa chiaramente di tutto quello che è la sicurezza e tutti i crismi, diciamo, per passare la cinta doganale, il festival cerca di farlo alla lanterna, cerca di farlo nella città di Genova in generale, così come a Marsiglia e a Saint-Nazaire sull'Atlantico, con questi progetti in parallelo che si parlano e portano in giro appunto queste buone pratiche, provando a risituarle nello specifico in queste diverse città. lanternagenova.it, vi ricordo ancora il sito, oppure beniculturali.it/GEP2016 per conoscere l'intero calendario delle giornate europee del patrimonio qui a Genova. La Lanterna, grande protagonista, grazie per... e complimenti per il vostro lavoro. Saluto anche la nostra tecnica delle grafene, Elena Mantero, però ricordando anche che appunto il grafene è anche indotto, il grafene è una startup, giusto, che è nata, esatto, all'interno degli Istituti Italiani di Tecnologia. Esatto, grazie alla produzione di grafene in fase liquida è stato brevettato questo metodo di produzione, quindi ne è nata B-Dimensional, che è la startup dei materiali bidimensionali, nato proprio con la missione ambiziosa di sviluppare nuovi materiali bidimensionali e soprattutto di rivolgersi alle aziende che vogliono innovare i loro prodotti con l'obiettivo di fare ricerca, e quindi si rivolgono a noi, a B-Dimensional, anzi come un vero e proprio consulente tecnico, condividono dei progetti di ricerca, valutano la fattibilità e quindi possono portare nelle nostre case, nel quotidiano, il grafene. Buon lavoro, ti aspettiamo, grazie, qui il prossimo anno solo nautico con le novità appunto riguardanti le imbarcazioni. Noi invece andiamo in acqua ora, con un collegamento telefonico, mi dicono è in acque francesi con la barca in avaria. Diamo il benvenuto a Roberto Soldatini, direttore d'orchestra e navigatore solitario. Ciao Roberto. Buongiorno, buongiorno a voi. Siamo preoccupati, la barca è in avaria davvero? Sono preoccupato io, in realtà sì, la barca è in avaria, non c'è vento, io sarei già dovuto essere in acque territoriali italiane, quasi già a Genova, in realtà sono in mezzo al mare perché non essendoci vento, senza motore non riesco a muovermi. E cosa fai? Suoni in questi casi? Qualche volta sono anche. Che non ti rimane altro da fare. Allora, robertosoldatini.com, do il sito. Intanto volevo averti in questa puntata di oggi dedicata al mare, ma sicuramente ci ritroveremo presto all'altra Europa perché la tua esperienza è bellissima. Ti sei rimesso in mare, stai facendo i tuoi 6 mesi di viaggio, tu e il tuo violoncello in questo momento? Sì, esatto, sono partito ai primi di giugno e tornerò a Napoli, dove io adesso risiedo in porto con la mia barca, per svernare a novembre. Quale rotta hai fatto? Quest'anno ho fatto, in genere faccio rotta, metto prua a Oriente, perché mi piace andare da quelle parti lì, nel Egeo, dove c'è molto vento ed è la culla della nostra civiltà, in un certo senso, e comunque mi trovo molto bene tra i greci. E quest'anno invece ho voluto fare una nuova rotta per promuovere il mio secondo libro, che è uscito per edizione Nutrimenti, Sinfonie Mediterranee, e per promuoverlo in giro per le coste italiane. Ho fatto gran parte delle coste italiane, poi il periplo della Sicilia, della Sardegna, della Corsica, fino ad arrivare a Cannes, da dove sarei partito stamattina, sono partito stamattina ma non ho fatto molte miglia prima che andasse in avaria il motore, perché ho presentato qua il primo libro, che era La musica del mare, che è uscito, sì, per edizione Serac, tradotto francese. Perfetto. Roberto, ti ringrazio, ci ritroviamo presto però per avere un racconto della tua Europa, sì, vista di costa in costa. È stato troppo breve. Assolutamente, no, sono io il primo a volerlo. Grazie ancora, ciao Roberto. Bene. A presto. Ciao. Grazie a te, ciao. Ringrazio Andrea, Alessio, Elena, Miriam, tutta la squadra di Radio 24 qui dal Salone Nautico di Genova. Ringrazio chi è in regia a Milano. L'appuntamento con l'Altra Europa, come sempre, e a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.